17 marzo, seconda parte. Volevo indicare. Allora, sarebbe bene che vi procuraste il libro e cominciaste a leggervelo, perché così almeno nella prima parte verranno ampliati. Io non è che ve lo faccio, magari qualche volta. Io ho detto, ma perché non metti i nomisti? Perché non mette i nomisti? Sono nel dibattito del Medioevo. Non mette il dibattito del Medioevo, ogni parte dei nominalisti. Nomisti, non capivo chi è. Nominalisti. Volevo parlarne adesso, sì, un attimo del dibattito. Diciamo allora, tutta la prima parte del libro è effettivamente una spiegazione di questo dibattito tra universalisti o dogmatisti o assolutisti e diciamo relativisti o scettici. Ed è buono perché praticamente vi fa nel primo capitolo fa è una serie di rapidissima storia della filosofia, insomma, a grandi linee da Platone agli empiristi del 600 fino a Kant, sintetica, sono poche pagine, però chiarisce bene, secondo me, l'ho preso perché è molto utile. No? Poi nel secondo invece parla degli argomenti, diciamo, relativisti, e poi nella seconda parte, che è la più grossa del libro, affronta quattro pensatori diversi. Adesso poi nella seconda parte ognuno di voi se ne scelga un paio di questi, nel senso, leggetevelo tutto, però per approfondire chi vuole. Ce n'è due a cui sono ovviamente più più legato che ad altri, che sono Foucault e Castoriadis. Altri due, uno perché conosco meno, quindi, e sono Michel Serres e Richard Rorty, e sono quattro filosofi in modo diverso, diciamo, relativisti, quindi spiega meglio. Insomma, è Foucault è quello a cui io tengo di più, perché è quello che mi ha aiutato di più a uscire da tutti i miei pregiudizi veteromarxisti, su cui ho fondato la mia giovinezza e la mia infanzia. Allora, però ecco, prima di passare al linguaggio, vi dirò semplicemente, vi ripeto, insomma, quelle che sono le tesi fondamentali del relativismo, quindi che non esiste nessuna verità libertà, perché questo sarebbe se voi volete uscire se usiamo una terminologia logica, questa E rovesciata si chiama quantificatore logica, ed è un quantificatore, si dice, esistenziale, equivale all'affermazione esiste un certo X. Se voi scrivete così, esiste X, due punti, X uguale assoluto, la potete leggere come esiste qualcosa di assoluto, esiste un X tale che X è assoluto. In genere, se voi fate, dunque, questo è il primo quantificatore logico e si chiama quantificatore esistenziale, afferma l'esistenza di qualche cosa. Questo altro segno, che è una rovesciata invece, è un altro quantificatore che si chiama quantificatore universale. Vuol dire che tutti gli oggetti di cui voi parlate, godono di proprietà. Qualunque x sia, x è assoluto. È chiaro che l'assolutista non afferma che tutto è assoluto, afferma che c'è qualcosa di assoluto. In generale, quando voi negate cioè it e non, a valori negati un quantificatore esistenziale ottenete di norma un quantificatore universale. Dire non esiste x tale che x è assoluto equivale a dire che di tutte le x che voi prendete nessuna è assoluta. Quindi al posto di questo non esiste, se fate una barra sopra nero, no? È come dire non. La barra diciamo che sia il non. Non esiste x tale che x è assoluto, equivale a dire qualunque x, x uguale a non assoluto. Quindi praticamente se prendete la negazione e la fate migrare all'interno della asserzione, potete trasformare il quantificatore esistenziale negato in un universale. Negare un quantificatore universale vuol dire negare un quantificatore esistenziale vuol dire affermarne uno universale che dice l'opposto. La stessa cosa vale per l'universale. Se negate un universale, affermate un esistenziale del contrapposto. Allora, la tesi generale non la trovate scritta in questo modo sul libro, quindi cancelliamo di fatto. Per sfuggire alla trappola che vi dicevo prima, e cioè sul fatto che se voi negate questa cosa in realtà dite qualcosa di altrettanto assoluto, eccetera, eccetera, eccetera, è probabilmente più utile allora usare un quantificatore universale. C'è una trappola come ovvio nell'uso del quantificatore universale, ma dipende da quello che gli mettete dietro. Allora, la tesi generale del relativista può essere espressa in questo modo: qualunque x voi prendiate, x è condizionato. Che cosa vuol dire è condizionato? Vuol dire c'è qualche cosa che lo condiziona. Condizionato in questo caso sarebbe il contrario di assoluto. Assoluto è sciolto da ogni diciamo, legame. Condizionato è condizionato da qualche altra cosa. Ovviamente la potete dire anche con la negazione dell'esistenziale, cioè potete anche dire non esiste un x che non sia condizionato, va bene? Quindi, però in pratica questo nel linguaggio comune equivale a dire qualsiasi cosa ci sia al mondo, questa cosa è condizionata. Si può raffinare ancora un po' di più questa asserzione, perché quando voi dite assoluto, in realtà potreste sottoporre a una analisi logica anche la parola assoluto, se la facciamo anche rapidissimamente così all'impronta, insomma, a occhio e croce. Cosa vuol dire assoluto? Che non è condizionato da nessun'altra cosa. Quando io però asserisco che questo qualche cosa è condizionato, sarebbe meglio probabilmente che io allora scrivessi così: qualunque x io prenda, i quantificatori andrebbero chiusi tra parentesi, qualunque x io prenda, esiste qualche altra cosa che posso chiamare y, tale che y condiziona x. Attenzione, y condiziona x. Attenzione, può darsi che il relativista o lo scettico non sia in grado di indicarvi qual è quell'y, ma la sua tesi di fondo sarà che ogni cosa che ci sia è condizionata, cioè è relativa a qualche altra cosa, c'è sempre qualche altra cosa. È preferibile la seconda formulazione perché mette in luce il fatto che il relativista afferma una continua relazione tra elementi del mondo. mentre l'assolutista proclama l'esistenza di qualcosa che non ha in realtà, diciamo, se non è condizionato vuol dire che non ha relazione, insomma, no? Che qualsiasi. Vabbè, comunque, diciamo, leggetevi perlomeno il primo capitolo, se avete il testo, perché magari su quello che dice nel secondo capitolo vi racconto qualcosa la volta prossima. Perché nell'ultima parte di oggi volevo cominciare a parlarvi di quello che succede quando quando questa tematica viene associata al linguaggio. La storia degli studi sul linguaggio è una storia lunga da un certo punto di vista, breve da un altro punto di vista. La linguistica che noi come la pratichiamo oggi è stata praticamente sviluppata nel corso di un solo secolo, cioè nel Novecento, e fondata da un individuo piuttosto bizzarro che si chiamava Fernand de Saussure, ed era un ginevrino, il quale non scrisse mai praticamente nessun libro, tranne alcuni articoli sulla lingua europea e su cose così, ma insomma, e il quale però si scoprì a un certo punto che faceva dei corsi bellissimi e strambi per la sua epoca, che vennero raccolti dopo la sua morte da alcuni dei suoi allievi, da due in particolare, quindi sulla base dei loro appunti, come se io crepassi improvvisamente domani e qualcuno di voi pigliasse gli appunti dei corsi di miei corsi e pubblicasse di questo libro di Caroni. In realtà Caroni non ha mai scritto quel libro lì, però se voi foste, chi di voi fosse così pazzo da fare questa cosa qua, cioè no, ma il libro di Caroni, perché Caroni ha detto queste cose, e secondo me Antonio Caroni è, non so che, cioè, contro il dogmatismo, che ne so. In realtà no, io non ho mai scritto il libro di lui, così lui non ha mai scritto il libro corso di linguistica generale, insomma, però. Adesso non vi faccio né la linguistica, né la storia della linguistica strutturale, né la, perché in realtà, però, per dirvi che in modi diversissimi, però già fino dall'antichità classica c'erano stati gli studi di linguistica, la stessa logica come l'ha formulata Aristotele, che è quello per cui ci è giunta fino a noi, insomma, la stessa logica aristotelica in realtà è poco più che uno studio di strutture linguistiche, diciamo scarnificate, ridotte all'osso, no? L'ossatura logica di un certo discorso, che ovviamente è ben lungi dall'esaurire il linguaggio. Gli stoici, i filosofi stoici ebbero una grande produzione linguistica, ma purtroppo non c'è rimasto quasi nulla di loro, e la nostra principale fonte sulla filosofia stoica, che ahimè è Cicerone, era uno che scriveva molto, ma era poco interessato alla linguistica in quanto tale, cioè alle riflessioni sul linguaggio, per cui non ci ha lasciato quasi nulla lui nei suoi riassuntini che faceva dei filosofi stoici ed epicurei anche su questa cosa, per cui noi insomma ne sappiamo poco. A lungo la logica è stata collegata con quella che oggi chiameremo linguistica, non c'era una vera linguistica, insomma, per tutto il Medioevo. E uno dei dibattiti più rilevanti per il nostro discorso è quello che prima ricordava Fabio, e cioè la cosiddetta Questio de Universalibus, questione sugli universali, che fu un dibattito che impegnò molti dei filosofi detti scolastici, cioè nel basso Medioevo, diciamo dall'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo secolo dell'era volgare. Che cos'era questa questione degli universali? Era una questione insieme ontologica ed epistemologica, insieme metafisica, da un certo punto di vista, e linguistica. l'oggetto di questa disputa riguardava i concetti, cioè riguardava quelli che nella logica aristotelica si chiamano i predicati, ciò che si dice delle cose. La domanda era: ciò che si dice delle cose, cioè i concetti, corrispondono a delle effettive proprietà del mondo? Che rapporto hanno? Sono questioni che rapporto hanno con gli stati di cose. Sono questioni sulle quali tutta la filosofia e la logica del Novecento hanno continuato a, riflettere, da Frege a Wittgenstein, sia il primo Wittgenstein che il secondo Wittgenstein. Però bisogna dire che da un certo punto di vista, in maniera un po' semplicistica, già nel Medioevo si erano poste le basi per le due possibili, o almeno due delle possibili, risposte. Voi capite che è una questione abbastanza vicina ad alcune di quelle che ho affrontato oggi. Che rapporto c'è tra il linguaggio e il mondo? Il linguaggio descrive il mondo in maniera esauriente, ma nella questione degli universali medievale si va un po' più a fondo, cioè, e quindi ci si chiede: i concetti, cioè i predicati, le proprietà, sono effettive descrizioni del mondo o sono categorie artificiali costruite dal pensiero umano? Per questa era una cosa che per chi credeva in Dio era molto importante, perché si trattava di capire se la conoscenza umana fosse in qualche modo paragonabile su una scala diversa a quella divina. Dio aveva creato il mondo in qualche modo, l'uomo era in grado di conoscerlo così come l'aveva creato Dio, o gli sovrapponeva una griglia diversa, o c'era dell'arbitrarietà? Perché gli universali, si chiamavano, perché gli universali, questi o dei universali, questione degli universali, perché ovviamente si pensava che tutte queste qualità fossero descrizioni generali, generalissime, quindi universali, di tutti gli oggetti del mondo, di tutti gli oggetti possibili. E allora, la risposta ortodossa fu la risposta cosiddetta realistica, e quindi la corrente, realista, il cui esponente principale fu il principale esponente della filosofia ufficiale della Chiesa nel basso Medioevo, il re incontrastato della scolastica, quello a cui anche Dante rende omaggio nel Paradiso, cioè Tommaso d'Aquino. La tesi fondamentale dei realisti era: gli universali sono rispecchiamenti delle proprietà generali del mondo e la conoscenza non è altro che lo stabilirsi di una giusta corrispondenza tra la mente e le cose. In latino, scientia est adequatio intellectus et rei. La scienza, la conoscenza è l'adeguamento dell'intelletto alle cose. Posizione realistica: il mondo esiste fuori di me, dipende da me, io devo solo descriverlo nel modo più compiuto possibile. Quindi, universalia sunt realia. Gli universali sono cose reali, sono il rispecchiamento, la descrizione di cose cose reali. Questa fu la posizione ufficiale assunta da San Tommaso. Ma ci fu una corrente minoritaria di filosofi con cui Guglielmo di Ockham non si compromise mai, anche se aveva grandi simpatie per loro, e lasciò, perché era furbo, e lasciò andare avanti gli altri, persone che non si ricordano. Mi pare che il più importante sia uno chiamato Rossellino, ma non mi ricordo bene se c'erano poi altri che erano più. I quali invece sostennero una composizione che per noi è molto più interessante oggi, letta oggi, e cioè sostennero una tesi che che possiamo chiamare radicalmente linguistica, una soluzione al problema degli universali radicalmente linguistica. L'asserzione provocatoria di questi filosofi fu che gli universali erano pure emissioni di fiato. Universalia sunt flatus vocis, sono le parole. E le parole non hanno alcuna reale relazione con le cose del mondo, perché le cose del mondo sono complicate. Siamo noi che con il linguaggio costruiamo un'armatura di cose intorno al mondo e per poterlo descrivere semplifichiamo, rendiamo più complesso, facciamo delle cose, però di fatto non esistono questi universali, è una sovrapposizione, una esigenza. Parole al vento. Cosa? Parole al vento, flatus vocis, parole al vento. Quindi era una, voi capite, insomma, una, come dire, posizione, come la si può chiamare, soggettivista, linguista, radicalmente linguistica, radicalmente soggettivistica, antirealista. È quello che Kant dirà molti secoli dopo, cinque secoli dopo. Una realtà fuori di noi esiste, dice Kant, ma è totalmente inconoscibile. Noi non conosciamo la realtà, quella che lui chiama il noumeno. Conosciamo solo i fenomeni, e i fenomeni sono costruzioni concettuali, costruzioni linguistiche, sono concetti di... Ora, questo dibattito ha attraversato anche la linguistica, sin da quando è nata in senso, come dire, moderno, dopo una certa fioritura ai tempi dei greci. La linguistica ristagna per un sacco di tempo, per tutto il Medioevo, ma ristagna perché in realtà viene messa dentro la filosofia, dentro la logica, quindi non ha una... Quando comincia a nascere come scienza autonoma nel XVII secolo in Francia, dapprima con qualcosina che ha scritto anche Bacone in Inghilterra, ma insomma è in Francia principalmente. Che però, una cosa, dimmi. Cioè, gli studi sulla retorica... Ok, cioè, fondamentalmente... studi di tecnica linguistica, cioè di tecnica di linguaggio, sì, ma non era una riflessione sui fondamenti, cioè certo, sì, si spiegava, c'erano, diciamo, nelle arti del trivio e del quadrivio c'era la retorica, era una delle cose fondamentali, ovvio, ma era la retorica di Aristotele che è semplicemente un manuale... La tecnica della retorica c'era... Sì, ma allora, la retorica di Aristotele è praticamente un manuale di marketing pratico, è un manuale per il perfetto oratore, cioè quali figure devi usare. E infatti quando nasce una riflessione sulla, una vera riflessione sul linguaggio appunto nel 600 in Francia, tutta questa parte, tutta questa retorica viene rapidamente svalutata, attaccata, e dice no, ma sono degli orpelli, un po' come te prima dicevi, ma no, non può essere giusto che vinca chi parla meglio, insomma, no? Sono questioni di retorica, no? Questa è la retorica. Invece poi oggi è stata rivalutata per altre vie, però c'erano studi di linguistica in questo senso, come dire, linguistica pratica, non linguistica teorica, non riflessioni sull'essenza del linguaggio. Quando comincia a nascere, ripeto, una nuova linguistica, nasce nel 600 in Francia ad opera soprattutto di una scuola di gesuiti che ha sede a Port Royal, se non sapete il francese, Port Royal, Port trattino Royal, con la S, però si legge Port Royal, non so che faccia, si legge così in francese. A Port Royal escono negli anni intorno al 1630-1640 due libri molto importanti che sono, non a caso, uno si chiama La Logique e l'altro si chiama La Grammaire, quindi la logica e la grammatica, entrambe chiamate Logica e Grammatica di Port-Royal. Sono anonime, in realtà chi ha contribuito a scriverle prevalentemente è un signore che si chiama Arno, ma non capite lo stile, perché se non capite il francese dalla pronuncia non si capisce come sono scritti. Questo signore Arno, più un altro che non mi ricordo, che ha scritto anche dei libri firmati da lui, però la, come dire, sia la logica che la grammatica di Porreal appaiono come opere collettive, cioè di un gruppo di intellettuali, di un gruppo di linguisti. Non a caso, quando diciamo nel Novecento uno dei più importanti linguisti del Novecento, cioè Noam Chomsky, darà, come dire, tenterà di costruire una ipotesi fondatamente universalista sul linguaggio, si rifarà proprio a questa che lui chiama linguistica cartesiana, in realtà non c'entrava cartesio, ma insomma, e si rifarà proprio alla logique e alla grammaire di Port-Royal. In qualche modo questa è una ripresa del dibattito medievale sugli, diciamo, sugli universali, e formula una teoria radicale senza prendere esplicitamente posizione sui rapporti tra linguistica e, in realtà, tra linguaggio e realtà, quindi senza esplicitamente formulare una teoria sui rapporti tra ontologia ed epistemologia, ma portando questo dibattito sugli universali all'interno del linguaggio. Cioè, la domanda precisa dei linguisti, dei filosofi di Port-Royal, è: ci sono strutture universali nel linguaggio? Il linguaggio si basa su dispositivi, meccanismi che sono uguali per tutte le lingue, descrivibili nello stesso modo per tutte le lingue, che poi si articolano diversamente, no? La loro risposta è sì, perché per loro il linguaggio è uno strumento della ragione, la ragione è unica negli esseri umani e quindi ci deve essere una struttura unica del linguaggio. Queste sono le tesi pari pari che riprenderà tre secoli più tardi Chomsky, e Chomsky ha formulato fino agli anni 50 l'ambiziosissimo progetto, lui per fare un passo oltre, perché la grammatica di Port-Royal, la grammatica di Port-Royal parla un po' di queste, diciamo, strutture, poi in realtà descrive la grammatica francese, non ha altro. Mentre Chomsky, che è molto, scrive quattro secoli dopo, è più consapevole, eccetera, Chomsky vuole costruire una vera grammatica universale, cioè vuole costruire, vuole trovare, le leggi che lui sostiene finora non sono state trovate, vuole trovare un insieme di leggi che descrivano come funziona il linguaggio, per tutte le lingue. Poi ci sono grammatiche diverse, lingue diverse, perché le lingue sono diciamo, diverse, ma, sostiene Chomsky, le lingue hanno un fondamento strutturale, è chiaro quello che dice, hanno un fondamento strutturale uguale, universale. Il chomskismo, cioè l'ipotesi di Chomsky, è una delle ipotesi universaliste più autorevoli, e non dico più fondate, ma su cui si è discusso di più nel corso del Novecento. Un archetipo linguistico. Una specie di archetipo linguistico, certo. Esattamente come Carl Gustav Jung qualche decennio prima aveva sostenuto che la psiche, che la psicologia umana è basata su un insieme strutturale di figure, di figurazioni diverse, ma in relazione tra loro, che valgono per tutte le psicologie, quindi la sua teoria degli archetipi. La psicanalisi nella versione junghiana, nella versione freudiana, in quella di junghiana, è un'altra, evidentemente, un altro diciamo, episodio importante dell'universalismo novecentesco, insomma, no? Così Chomsky, dal punto di vista linguistico, sostiene una tesi analoga: esiste una grammatica universale, e la gran parte della sua, di questa, della grammatica, dice Chomsky, deve essere generativa e trasformazionale. Generativa perché ci sono dei meccanismi mentali che lui pretende di poter descrivere, algoritmizzare, come se fossero delle strutture ad albero dell'informatica, insomma, in qualche modo, no? Che sono strutture logiche del linguaggio, no? Tutto il tutto il neopositivismo novecentesco aveva questa idea. Il titolo dell'opera principale di Rudolf Carnap, che è uno dei principali filosofi neopositivisti, era Die logische Aufbau der Sprache, la struttura logica del linguaggio, l'architettura Aufbau, l'architettura, la struttura logica del linguaggio. C'era già nei neopositivisti questa idea, nel primo Wittgenstein, non nel secondo, perché Wittgenstein per la propria fortuna fece autocritica rispetto alla sua opera giovanile, il Trattato sul logico filosofico, che passò ad altre tesi totalmente diverse nella seconda parte dell'attualità, anche sul linguaggio. Ma il Trattato fa parte a pieno titolo del primo neopositivistico, e quindi sostiene intanto questa omologia tra linguaggio e mondo, e poi questa, diciamo, noi adesso diremo in termini moderni, algoritmizzazione del linguaggio, insomma. Il grande sogno di Chomsky è quello di, quindi, generativa, perché si generano le varie frasi, e poi trasformazionale, perché Chomsky sostiene che esiste, che questa struttura logica del linguaggio genera ciò che lui chiama delle deep structures, delle strutture profonde, che sono strutture logiche, strutture mentali, non sono produzioni verbali, che poi vengono trasformate nelle frasi da un opportuno componente, lui dice, del linguaggio, che è il componente trasformazionale. Quindi c'è un componente logico del linguaggio che genera le strutture profonde ed è generativo, e un componente che fornisce le forme finali, cioè le sequenze di parole, dimmi. Tipo un codice che... che da un'unica struttura profonda fornisce le frasi specifiche. Per darvi un esempio specifico, le frasi che dico adesso sono tutte frasi linguisticamente diverse. Fabio ha picchiato Antonio. Antonio è stato picchiato da Fabio. Ma Fabio ha picchiato Antonio? Fabio picchia Antonio. Sono due frasi diverse. Ma secondo Chomsky derivano da un'unica struttura profonda, che è soggetto Fabio, azione picchiare, oggetto Antonio. La componente logica della pretesa grammatica universale di Chomsky genererà una struttura profonda che mette insieme questi tre, diciamo, elementi, e che avrà questa forma, diciamo, tipo frase, sintagma nominale, sintagma verbale, ci sarà un verbo e un complemento oggetto. Questa è la struttura profonda, secondo Chomsky, di una frase del genere. Poi c'è un componente trasformazionale che trasformerà quella struttura profonda in una frase attiva. Fabio ha picchiato Antonio. In una frase passiva. Fabio è stato picchiato da Antonio. In una frase interrogativa. Ma Fabio ha picchiato Antonio. Oppure, chi ha picchiato Antonio? Se mi togli Fabio, anche chi deve può arrivare sempre da quello. O da una imperativa. Fabio picchia Antonio. Però tutte queste hanno una unica struttura proposta, è un tentativo di unificazione. Le teorie di Chomsky hanno avuto, e sono teorie relativamente recenti, beh, hanno più di 50 anni ormai, sono però, diciamo, il primo libro in cui vennero espresse era Syntactic Structure, strutture sintattiche, che mi sembra sia del 55, del 57, del 57, non mi ricordo bene, e furono fortemente innovative, perché Chomsky in quei libri sostiene di volere superare quella che lui chiama la linguistica strutturale dei suoi tempi, che consisteva in una specie, diciamo, linguistica senza ipotesi, senza queste grandi ipotesi, era semplicemente un insieme di regole per, diciamo, segmentare le varie proposizioni, e da questa segmentazione su base empirica cercare di trovare delle regole, diciamo, generali. La via di Chomsky, come capite, è totalmente diversa. Chomsky è un mentalista, un innatista e un universalista. Sostiene che la mente umana ha una struttura indipendente dalle culture, che questa struttura funziona in un modo descrivibile in maniera più o meno complessa da algoritmi, che è questa attività. Cosa? È uno dei padri del primitivismo. E che questa, che questo funzionamento della mente è descrivibile, che è quello che è responsabile del linguaggio. Quindi ha una concezione molto top-down, direbbero gli informatici, no? Daci, vai giù, parti da una cosa e poi sviluppi mano a mano. La logica viene prima della linguistica e del linguaggio. Il parere di alcuni, tra cui io, ma il mio non è un parere autorevole come opera, insomma di, diciamo, dei linguisti più autorevoli di me, è che Chomsky abbia fallito in questo suo tentativo. Chomsky non ha ancora trovato, ma uno dice vabbè, lui ha fatto il programma di ricerca, poi si troverà, non ha ancora trovato, non ha ancora descritto questa grammatica universale. Ha soltanto detto che ci deve essere e ha soltanto fornito i criteri generali in base ai quali dovrebbe o potrebbe essere costruita. Ma i critici dicono che in realtà Chomsky ha fornito alcuni degli spezzoni, alcune delle regole o dei complessi di regole che dovrebbero formare questa grammatica universale, uno dei quali, per esempio, lui lo ha chiamato la regola del doppio H, che è la regola per formare le interrogative, doppio H perché in inglese quasi tutte le frasi interrogative hanno who, which, where, eccetera, what, doppio H. Ma in realtà sostengono i critici di questo programma, di questo progetto chomskiano, queste non sono regole generali, sono una semplice generalizzazione di regole della lingua inglese o al massimo di regole comuni alle lingue indo-europee, quindi germaniche neolatine e diciamo slave, che sono le tre grandi famiglie, più quelle diciamo indiane, diciamo indi. Ma non sarebbero delle vere regole che generalizzano davvero strutture per tutte quante le lingue, insomma, no? Questo sostengono i, diciamo, critici. Resta però sta il fatto che voi, insomma, capite bene che questa è un'ipotesi, è un, come dire, un bel esempio dell'universalismo, no? Perché è uno dei campi in cui forse, se l'universalismo è fondato, in cui si potrebbe davvero trovare qualcosa che è più che non la regola delle idee, che sono un po' così, cioè la linguistica, studiamo i linguaggi, sono produzioni linguistiche, quindi si possono trovare. Ora si dà il caso però che prima di Chomsky, in anni precedenti a, insomma, Chomsky, la linguistica americana avesse in effetti prodotto altri personaggi che avevano sostenuto una tesi, delle tesi, non in modo così chiaro, ma insomma un punto di vista totalmente, radicalmente diverso da questo, diciamo, chomskiano, anti-universalista, o se non anti-universalista, non universalista, e queste due, diciamo, persone però non hanno mai formulato un programma in modo così chiaro e così strombazzato come fece poi Chomsky, no? Uno era uno dei più grandi linguisti della prima metà del secolo XX, che si chiamava Edward Sapir, e l'altro è il più geniale dei suoi allievi, che si chiamava Benjamin Lee Whorf. che non era neanche un linguista in senso stretto, nel senso che mentre Sapir era un linguista, Benjamin Lee Whorf, si scrive così. Lee Whorf, Benjamin sapeva come dire, come Benjamin. Benjamin Lee Whorf. Questo signore, che è morto improvvisamente nel 1941, era in realtà un ingegnere, credo, un ingegnere minerario, il quale però siccome lavorava per una agenzia americana, girava, ha studiato un po', diciamo, l'America, ed è entrato in contatto con alcuni gruppi linguistici che c'erano ancora, anche oggi ci sono, ma insomma negli anni 20-30 erano quasi diciamo nativi americani. In particolare un gruppo di indiani Hopi, H-O-P-I, e quindi per una serie di motivi si era messo, lui era partito da roba, insomma era un linguista dilettante, era partito su cose fantasiose, studiava un tipo francese che in realtà aveva peggio di Newton, che sosteneva che studiando la lingua, l'ebraico della Bibbia si sarebbe potuto capire una sintonia e cose assolutamente universaliste. Ma la cosa buffa e invece bizzarra è che Lee Whorf parte, diciamo, da lì, comincia a studiare le lingue, diventa allievo, sia pure in maniera, per esempio, la cuffia di quel Sapir, che invece era un linguista che insegnava all'università, eccetera, eccetera, e comincia a scrivere dei saggi, a pubblicare dei saggi su questa lingua Hopi, sulle riviste di linguistica, che hanno successo tra gli stessi linguisti, quindi va in varie cose, poi fa una cosa importantissima da dilettante e senza mai essere andato, insomma, con un breve viaggio, diciamo, in Messico. Studia un po' degli eroglifici Maya, scopre che c'è una componente linguistica, perché nessuno crede di lui aveva capito bene questa cosa, che gli eroglifici Maya non sono un pure semplice strumento ma c'è una parte che è un strumento linguistico, cioè è una struttura in qualche modo, come quella ebraica, e la decifra. Quindi ha un grande successo per questo, però poi muore nel 1941, molto molto giovane, ha meno di 50 anni, credo, se non mi ricordo male. A 40, no, a 48 anni, no, a 43 anni, nato nel 1897, morto nel 43. E quindi dopo che lui è morto, proprio quando Chomsky negli anni 50 comincia, alcuni dicono, ma guardate che c'è un'altra ipotesi, e questa ipotesi viene chiamata ipotesi di Sapir-Whorf, perché si trova esposta, ma in maniera un po' criptica, in alcune opere, diciamo, di Sapir, ma più chiaramente in alcuni di questi articoli, alcuni di quelli sulla lingua Hopi, proprio da Whorf. Che cosa dice Whorf? Sinteticamente dice questo. Le lingue non sono strumenti di traduzione di un pensiero che c'è già e che viene linguisticizzato e viene tradotto, sono strumenti di formazione del pensiero. E strumenti di formazione del pensiero significa che sono anche formatori di mondi. Ogni lingua porta con sé un modo di vedere le cose, una visione del mondo, un qualche cosa che è strettamente legato a quella lingua. Quando si traduce da una lingua all'altra, si può tradurre solo quegli elementi che sono eventualmente comuni tra le visioni del mondo delle due, della lingua di partenza e di quella di arrivo. Ma si perde gran parte di quella visione del mondo che era propria della lingua di partenza, che non fa parte della lingua di arrivo. Quindi ogni lingua non è uno strumento neutro, come nell'ipotesi universalista. C'è un pensiero e poi le lingue lo traducono in maniera diversa, certo, ma traducono sempre lo stesso pensiero, perché la struttura mentale dell'uomo è uguale in tutte le cose. Se no, le strutture mentali, i modi di funzionamento sono diversi. Vorrei leggervi anche, magari vedremo qualcosa di più la volta prossima, ma anche soltanto l'inizio del suo saggio sulla di uno dei suoi saggi sulla lingua Popi, e si intitola infatti, pubblicato, nel, no, pubblicato dopo la sua morte, ma alcuni di questi saggi erano inediti, non erano neanche pubblicati. Questo qua si chiama Un modello di universo degli indiani d'America. La frase di apertura di questo libro è questa: trovo gratuito supporre che un Hopi, il quale conosce solo la sua lingua e la cultura della sua società, abbia gli stessi concetti, sovente ritenuti intuizioni, è un attacco a Kant, di spazio e tempo che abbiamo noi e che generalmente vengono ritenuti universali. In particolare, un Hopi non ha una nozione generale o una intuizione del tempo come un continuo che scorre uniformemente, in cui tutto l'universo procede con uguale rapidità, da un futuro attraverso un presente in un passato, o in cui, per cambiare punto di vista, l'osservatore viene trascinato nel flusso della durata dal passato. Dopo lunghi e accurati studi e analisi, si è trovato che la lingua Hopi non contiene parole, forme grammaticali, costruzioni o espressioni che si riferiscano direttamente a ciò che noi chiamiamo tempo, al passato, al presente o al futuro, al perdurare o al continuare, al movimento in quanto cinematico piuttosto che dinamico, cioè come traslazione continua nello spazio e nel tempo, piuttosto che come manifestazione di uno sforzo dinamico in un certo processo, o anche soltanto che si riferiscano allo spazio in modo da escludere quell'elemento di estensione o esistenza che noi chiamiamo tempo, lasciando così un residuo che potremmo chiamare tempo. Quindi la lingua Hopi non contiene riferimenti né espliciti né impliciti al tempo. È chiaro? In questo saggio poi lui argomenterà e spiegherà, sostiene che gli Hopi non hanno il concetto di tempo come ce l'ha l'uomo occidentale, come ce l'aveva il greco antico e come ce l'abbiamo avuto noi e come ce l'hanno moltissime altre culture. Perché lui, diciamo, versione debole del principio di Sapir Whorf, perché dall'esame di una lingua si ricava, diciamo, non si possono ricavare elementi sufficienti a poter inferire l'esistenza di certe categorie concettuali. Ergo, dobbiamo ammettere, non è ancora un principio forte, perché non c'è ancora l'affermazione del fatto che certe culture sono legate alla lingua, ma c'è la questione del principio in forma debole, cioè che diciamo, la lingua ha in qualche maniera influenzato, è in qualche maniera in rapporto, ecco, con un certo sistema di costruzioni grammaticali. In un saggio dell'anno prima, l'apertura di questo saggio è questo: i verbi in lingua Hopi sono degni di nota per lo sviluppo ricco ed espressivo dei modi e delle forme verbali. Non parlerò in questo lavoro delle nove voci: intransitivo, transitivo, riflessivo, passivo, risultativo, passivo esteso, possessivo e cessativo, e dei nove aspetti: puntuale, durativo, segmentativo, puntuale segmentativo, incoativo, progressivo, spaziale, proiettivo e continuativo. Mi occuperò soltanto di due. Si può osservare che non ci sono gli aspetti perfettivo e imperfettivo. Anzi, l'Hopi non formalizza assolutamente in quanto tale il contrasto tra la compiutezza e l'incompiutezza di una azione. Mangiai, mangiavo. Neanche gli inglesi, peraltro, perché non c'hanno. Però siamo loro. Gli inglesi però hanno I ate, I was eating, I was being eating. Ne hanno i modi per esprimere quello che noi esprimiamo, noi francesi e i tedeschi scrivono comunque per sé. I suoi aspetti, gli aspetti dei verbi topi, formalizzano varietà differenti del contrasto tra il luogo puntuale e il luogo esteso dei fenomeni, indifferentemente nel tempo, nello spazio o in un tratto. Lo copia anche tre tempi, il fattuale o passato prossimo, il futuro e il generalizzato o usativo o usitativo. I verbi copi appartengono a sette classi o coniugazioni che hanno sistemi flessibili leggermente diversi. La prima classe, quella più estesa e più creativa, contiene poche categorie che nelle altre classi non ci sono, e tra esse l'aspetto segmentativo. Questo saggio, che è brevissimo, ma a me mi colpì moltissimo quando l'ho letto, perché sono 5 pagine, in cui poi lui fa degli esempi anche molto più concreti, questo è soltanto l'inizio, e in cui voi vedete come, io ovviamente non conosco la lingua Hoppe, quindi mi devo fidare di quello che dice Ward su questa lingua, ma se le sue se i suoi riferimenti, che so, se i materiali su cui lui si basa sono materiali degni di fiducia, cioè realistici, è indubbio, cioè risulta chiarissimo come per esempio le differenti modalità dei verbi, e noi siamo abituati che i nostri verbi hanno una modalità, un modo, no? Indicativo, congiuntivo, eccetera. Poi un tempo, un passato di vari tipi, passati, presente, futuro, eccetera, e delle persone. Una volta che noi sappiamo queste tre cose, si scopre che ci sono lingue in cui non c'è differenza, per esempio, tra indicativo, congiuntivo, eccetera, ma c'è differenza, mettiamo, tra quello che lui chiama gli aspetti intransitivo, transitivo, riflessivo, passivo, semipassivo, risultativo, possessivo, cessativo, delle cose che noi, dei concetti che noi esprimiamo, per esempio, con gli aggettivi, no? Possessivo, ho mangiato la mia minestra, questo è il mio registratore, dammi per favore la mia penna, loro li mettono nei verbi, per esempio. Allora, cioè, è possibile mai che io possa pensare che questo non abbia conseguenze sul modo di, che non sia correlato con un modo di pensare diverso, con una visione del mondo, diciamo, diversa? È ovvio che ci sarà questa. Allora, ad esempio, a questo punto l'esempio che fa è, c'è un prefisso, c'è un suffisso durativo che si chiama ta, che attaccato a certi verbi faccia risultati. Questo ve lo leggo la vostra cosa, che voglio fermarvi un po', insomma, di più. Allora, insomma, comunque, il succo è che anche nella comunica linguistica c'è un dibattito tra diciamo, le posizioni universaliste e quelle scettiche o relativiste, in questo caso relativiste, ha ragione, sono giusta, per esempio. Allora, di questa roba parleremo meglio la volta prossima. Abbiamo una presa prestigio dalla casa editrice, che è questa qua, il libro pensiero, che mi hai detto era Turbo, tipo. Sì, è Turbo, non la fine, non ricordo. Globetta. Ma c'è questo... Ok, vada qua. Questo è scritto, è l'altra edizione. Ah, perfetto. Via di qua. Stop.